cominciamo subito da Michele, che c'ha un sacco di cose. Oddio, continuo ad avere questo problema. Ok, vabbè, fingiamo indifferenza. Ah, ok, con tutti e due forse. Ok, facciamo finta che si senta bene. Non so, chissà come mai. Facciamo così. E raccontaci tutto. Che cos'è Bottega Finzioni, innanzitutto? Raccontaci che cos'è, che cosa siete. Siamo attualmente una fondazione da circa un anno, che nasce per far sopravvivere e accogliere l'esperienza di Bottega Finzioni, che è stata ed è ancora una scuola di narrazione, di scrittura, sceneggiatura e tutte le forme di narrazione in genere. E per i primi 10 anni è stata una forma societaria, un SRL, poi si è trasformata, visto che ha una vocazione alla formazione finanziata, quindi gratuita per gli allievi, a trasformarsi in fondazione di partecipazione, non di capitali. Quindi tutti coloro che partecipano in qualche modo alle attività di Bottega sono diventati soci fondatori, tra l'altro alcune istituzioni come il comune o enti come ad esempio Banca Etica, oppure singoli autori o società di case di produzione come Indigo Film di Nicola Giuliano, che è la casa di produzione in Sorrentino, o IBC Movie di Bologna, si sono riunite in questa fondazione che mira a essere, insomma, speriamo, proviamo a costruire una sorta di fondazione narrativa come ci sono in tanti in paesi all'estero, soprattutto anglosassoni. Quelle più note sono la 826 di Dave Eggers a San Francisco, oppure la Ministry of Story di Londra. Sono dei luoghi dove si fa formazione alla narrazione, un po' in ambito professionale come facciamo noi, e un altro po' in ambito più rivolto al sociale, quindi alle cosiddette aree di fragilità, che possono essere i bambini, la lotta alla povertà educativa o altre situazioni di difficoltà, dove la narrazione viene insegnata come strumento di crescita personale. Poi dopo, se vogliamo, scendiamo nel dettaglio. E dunque, come entità di questo tipo, come ci racconti dall'estero, siete gli unici in Italia? Come fondazione narrativa io credo proprio di sì. Ci sono altre, naturalmente, altre scuole di scrittura. Sì. Questo è ovvio. Che noi siamo una scuola di scrittura che ha sempre mirato a formare e a far accedere gli allievi gratuitamente. Spesso non perché siamo buoni, ma perché è il modo migliore per incontrare quelli che hanno talento. Naturalmente sono d'accordissimo. Il talento non è distribuito per capacità di reddito, ma per altro. Quindi, questa è una cosa che anche le accademie di belle arti dovrebbero considerare, e non solo, tutte le scuole artistiche, secondo me. Sì, si dovrebbe, certamente. Poi, appunto, osservato dal punto di vista di chi deve incontrare le persone di talento, hai più possibilità di incontrarle. Naturalmente, se arrivare a fare la selezione sono 300-400 persone invece che 30, perché la scuola costa molto. Quindi, per fortuna, abbiamo lavorato nel tempo con la regione per il sostegno attraverso il Fondo Sociale Europeo, quindi i corsi sono finanziati e vengono, accedono un'ottantina di persone all'anno più un corso avanzato, che sono finanziati anche da partner e sponsor privati, e si fa una selezione esclusivamente per quello che può essere l'individuazione del talento narrativo. Da invece altri corsi che sono rivolti al sociale, sono anche lì la partecipazione è in base invece al bisogno, quindi si vanno, adesso stiamo facendo corsi per i bambini della quinta elementare e sono corsi pensati per far emergere e in qualche modo raccontare l'aggressività, visto questa soglia di passaggio tra la quinta elementare e la prima media, soprattutto nell'ultimo anno di Covid, quando con l'isolamento si sa, purtroppo l'aggressività aumenta, certamente, come è evidente da tanti anche notizie che leggiamo rispetto all'autolesionismo e tante altre cose. L'idea è quella di farli raccontare attraverso il gioco del giallo, per esempio, del poliziesco, oppure della tragedia, oppure ci sono corsi rivolti a aree in collaborazione, stavamo sviluppando naturalmente prima del Covid, con le cucine popolari di Morgantini, o con rivolti, non so, alla cosiddetta medicina narrativa, che anche questa è all'estero molto praticata da diversi anni. Stavamo sviluppando un percorso con l'ospedale Sant'Orsola. Ecco, magari mi fermo, non vorrei dilungarmi troppo. Mi chiedevo che cos'era questa medicina narrativa di cui parli. La medicina narrativa è una pratica che viene anche questa seguita da una ventina d'anni all'estero. In alcuni reparti si sono accorti che, se diciamo parallelamente alla cartella clinica tradizionale che raccoglie diciamo i dati clinici, i medici segnano la pressione e tutto il resto, se in qualche modo si invitano i medici a prendere in questa cartella clinica che è detta narrativa o parallela delle note sul paziente che sono di tipo umano, cioè oggi lo vedo più allegro oppure più giù, oppure ha litigato con la moglie, oppure perché ha fumato di nascosto, non so, delle note che sono più appunto qualcosa che hanno a che fare col racconto della persona. Nel tempo, pian piano, i medici si incontrano, diciamo, una volta al mese e si raccontano i loro pazienti. Nel fare questo si è visto che nel tempo aumenta l'empatia medico-paziente inevitabilmente. Il paziente non è più un numero in un letto, naturalmente parliamo di pazienti di lungo degenza, ma è un qualcuno che, se il medico comincia a notarsi non solo i dati clinici, pian piano si sviluppa empatia tra medico e paziente, e in tutti i reparti dove è stato fatto questo, per magia o forse no, aumenta la risposta alle cure, migliora. Certo. Naturalmente non cura. Stiamo parlando di intelligenza emotiva, o sbaglio? Sì, di empatia, esatto. Okay. In questo modo, diciamo, di solito aumentando e rafforzando il rapporto tra medico e paziente migliora proprio il modo di accogliere le cure. Quindi questo, stavamo iniziando a sviluppare questo quando poi purtroppo è sopraggiunto il Covid e altri problemi, insomma. Ahimè, fantastico. If all your stars align, you might be lucky enough to find someone who completes you, someone who really needs you. But once you got something, then you got something that you're afraid to lose. And just because they love you don't mean that they won't leave you. Eccoci qua, tornati. Oddio. Stavo dicendo che non leggo i commenti di Giffo che saluto, ma mentre invece se qualcuno vuole commentare in maniera più seria potete farlo al 333 180 94 94. E dunque abbiamo sentito un po' di Michele, adesso passiamo a Lucia e Olivia, raccontateci che cos'è Exit mentre i Ramones fanno del sottofondo. Oddio, scusate, questo non doveva partire, succede. Mi avete distratto. Allora, Exit è un progetto che è nato nel 2017 da un'idea mia e di Lucia, che ci siamo incontrate nel contesto di un festival teatrale di Bologna che esisteva già dal 2014 e che si chiama Festival 2030. E Exit è nato inizialmente come progetto collaterale, come progetto off di questo festival teatrale, molto legato alle urgenze e ai desideri di una generazione, che è la generazione tra i 20 e i 30 anni, di chi ha tra i 20 e i 30 anni, e segue questa modalità, questo atteggiamento partecipativo, di incontro, che noi abbiamo in qualche modo voluto trasportare nell'arte, in realtà, nell'arte visiva e nell'arte performativa. Quindi è stato un progetto che per i primi 2 anni è partito proprio da questa idea di identità narrata e trasportata attraverso una narrazione dell'identità dei luoghi. E, inizialmente insomma, questa relazione è stata soprattutto con la casa, che è, diciamo, l'ambiente intimo per eccellenza, chiuso, e che abbiamo proposto di aprire per un giorno, per pochi giorni, al pubblico. E qui il pubblico si relazionava appunto con gli spazi intimi della casa di qualcun altro che lo faceva entrare, e dentro questi spazi poteva fruire il lavoro di alcuni artisti che abbiamo chiamato sempre, diciamo, artisti giovani emergenti del territorio di Bologna, e che hanno fatto dei lavori fondamentalmente site specific, in stretta relazione con l'ambiente privato in cui stavano lavorando, oppure in rari casi hanno adattato dei loro lavori a questo ambiente. Mm-hmm. Beh, se posso, certo, ci manca solo una cosa fondamentale. Quindi Exit cos'è? È un festival, finora è stato un festival di arti visive e performance di base, cioè parallelamente a questo festival teatrale si è sviluppato così in questa modalità di incontri satellite nell'arco di un paio di giorni, ogni anno con una modalità leggermente diversa, quindi i primi 2 anni dentro delle abitazioni, il terzo anno dentro dei negozi di alimentari. Sì, dei mini market che abbiamo, ci siamo chiesti, insomma, se questi luoghi di passaggio in cui quotidianamente ci richiamo, che in effetti gli artisti e i mini market sono molto vicini per qualche motivo, no? Probabilmente Beh, diciamo che sono tra i fruitori delle birrette del mini market. Assolutamente confermo, infatti proprio per il fatto che a Bologna, insomma, sono luoghi assolutamente frequentati, quasi identitari della nostra città, perché infatti, non è così in tutte le città. È vero. E insomma, questi luoghi ci siamo chiesti, ma luoghi di passaggio, sì, ma se per un giorno fossero luoghi in cui succede qualcosa, in cui si entra e si può stare per un po', per caso o perché si sapeva che c'era l'evento, quindi insomma abbiamo anche coinvolto anche un pubblico inconsapevole in certe occasioni, magari era lì per comprare appunto lo zucchero, la birra o quello ma che mancava. Ma cosa accadeva? Che sono curiosa, cosa accadeva dentro? Ma allora, avevamo invitato degli artisti e delle artiste, come diceva Olivia, soprattutto ragazzi e ragazze emergenti, un po' dal bacino dell'Accademia di Belle Arti. Ok, che voi entrambe avete frequentato. Esattamente, infatti il progetto è nato che noi eravamo ancora entrambe iscritte alla triennale. Sì, ok. Sì. E cosa succedeva? Erano delle piccole installazioni spesso di tipo, diciamo, che giocavano sull'interazione col pubblico, o con l'interazione con lo spazio e o anche con il negoziante. E quindi sostanzialmente erano poi delle, cioè si sviluppavano come delle sorta di performance, in ogni caso in base alla pratica dell'artista che aveva proposto appunto un lavoro. Non so, c'era l'ultimo anno appunto, che è stato il 2019, ci siamo fermate con il Covid, diciamo l'ultima edizione è stata quella. Penso a Edoardo Ciaralli, che aveva fatto, che conosciamo naturalmente. Certo, ma Edoardo è dovunque. Sì. Non per tirarcela, ma abbiamo intercettato, secondo me, degli artisti che adesso stanno, che stanno andando bene. Sì, c'era anche la Sara Lorusso. Schaffei. Sì, a Schaffei. Che ora sta volando. Sta volando. Sì. Ottimo. E tipo Ciaralli fece questa piccola, era una scultura, un'installazione con un piccolo robottino motorizzato che scriveva l'ora continuamente, ogni minuto scriveva e cancellava l'orario sul vetro di un frigo. Ah, fantastico. Oh, sì. Mattia Paia aveva fatto indossare a uno dei negozianti una felpa, che era una sorta di archivio di immagini, di riferimenti visivi e opere sue stampate proprio sul tessuto della felpa che il negoziante indossava durante l'evento. Sì. Mattia Paie, che l'ascoltatore attento abbiamo intervistato proprio ai tempi del Covid, perché abitando di fronte al Mambo scendevo e mi potevo permettere, all'interno dei 50 metri o quello che era, mi potevo permettere di andare a intervistare i ragazzi del Nuovo Forno del Pane, quando in realtà nessuno poteva andare da nessuna parte. E voi cosa avete fatto durante il lockdown? Ma io ho scritto la tesi. Sicuramente è stato un ottimo momento per concentrarsi su. Esatto. Beh, come diciamo, un progetto dal 2020 in realtà, perché come dicevamo prima, il progetto è nato collateralmente a questo festival e per tutti gli anni della sua esistenza ha visto anche per la partecipazione volontaria di alcuni membri del collettivo della direzione artistica, che poi si sono uniti a noi due letteralmente per insomma immaginare questa nuova edizione, che poi ancora non si è verificata appunto perché nel 2020 l'ultima edizione è stata a novembre 2019, quindi certo, proprio l'avremmo voluta programmare per novembre 2020 e non è stato possibile. Detto questo, noi abbiamo studiato, ci siamo confrontati. Avete fatto bene, perché tematiche, come anche Michele vi dirà, studiare non è mai abbastanza, no? Cioè non si studia mai abbastanza. No, diciamo proprio in vista di questo nuovo progetto che vorremmo realizzare, per portare Exit, diciamo, in modo più diretto, direttamente nello spazio pubblico. Certo, anche perché l'avete chiamato Exit. Esattamente, esatto, no? Quindi è giunto il momento, anche perché siamo partiti dalle case nel 2020. Anzi, prima del Covid avevamo quasi il desiderio di ritornare e approfondire quel discorso lì, e poi ci siamo detti proprio no, cioè non ce la possiamo fare. Dopo un anno e mezzo in casa, assolutamente. Non c'è ma invece il festival, il vostro festival ripartirà adesso che più o meno si sta ripartendo, come sono le... Ripartirà, abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti probabilmente per la primavera, cambieremo un po' forma perché forse non saremo più esattamente festival, vorremmo fare più eventi sparsi e dilatati durante l'anno. E forse anche insomma sperimentare forme nuove, sempre molto coinvolgenti e partecipative. Sì, esatto, ci piacerebbe focalizzare il programma di quest'anno invitando artisti e artiste che abbiano una pratica che sia, diciamo, se non propriamente alla vocazione partecipativa, che possa essere declinata in ad esempio esperienze come workshop, sia per un pubblico diciamo interessato e attivo, ma anche appunto cercando di coinvolgere molto la comunità dei luoghi in cui andremo poi a calare queste esperienze, questi... Sì, in modo che attraverso questa pratica partecipativa e effimera si recuperi un po' di quell'intimità che c'era in casa, che per noi è una parola che ci sta molto cara, l'intimità, sì. Portarla nello spazio pubblico è un po' una sfida che ci vogliamo porre. Sì. E comunque vi volete rimanere volanti, cioè sì. No, perché in effetti chi organizza cose del genere molto spesso sente il bisogno di avere una sede o comunque uno spazio dove fare delle cose, lo stesso teatro, no? Mm-hmm. Il mondo del teatro molto spesso si ancora in una sede, magari una compagnia teatrale nasce volante e poi si ancora in una sede e più o meno diventa quello il loro mondo, mentre invece voi, devo dire che questa cosa mi piace moltissimo, del fatto di rimanere volante. E a livello di finanziamenti come siete messi? Quanto è difficile per voi raccogliere fondi, fare delle cose, cioè, o perlomeno anche solo magari gestire un progetto che comunque ha dei costi? Sì. Beh, al momento è abbastanza difficile. Sì. Ma perché come sempre per le arti contemporanee, però. Ma soprattutto perché un po' abbiamo vissuto tra virgolette di rendita, avendo cominciato il progetto in collaborazione con questo festival teatrale, certo, che si occupava di tutta la parte finanziaria. Esattamente. Sì, eravamo in programmazione, okay. Eravamo sì, inseriti nella programmazione, per certo. Cui nel momento in cui poi ci siamo costituiti come associazione, insomma, ci siamo dovuti confrontare. Poi praticamente nello stesso momento è arrivato il Covid, quindi vuoi capire che insomma è un po' complicato. Al momento, recentemente, insomma, abbiamo fatto un piccolo autofinanziamento per vedere di far partire un po' i prossimi progetti, almeno avere una base, e poi ci piacerebbe appunto cercare di fare collaborazioni e sponsorizzazioni, appunto provare anche a partecipare ad altri bandi magari del comune, insomma, quelle cose che per noi che siamo un'associazione giovanissima sono le occasioni, sì, certo. Occasioni accessibili, ecco. Quindi sì, non è facile, cioè è ancora, come dire, abbastanza complesso. No, soprattutto in quest'ultimo anno è stato parecchio difficile anche pensare di proporre un progetto nello spazio pubblico che desse al pubblico questa libertà di fruire, insomma, a suo piacere gli certo. eventi, che è una cosa qui noi abbiamo sempre tenuto abbastanza, no? Che il pubblico potesse fare la propria esperienza di mappatura della città attraversandola a piedi, in bicicletta o come voleva, per recarsi nelle varie tappe degli eventi. Quindi insomma sì, quest'anno è stato nota dolente. Non è facile per nessuno, neanche per Radio Città Fujiko, che si mantiene con la pubblicità delle 19:30 che adesso andiamo ad ascoltare. La violenza psicologica è il tuo successo. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Che io in realtà gli avevo chiesto di dire sto ascoltando Coxo Spaziale, ma ha ammesso immediatamente che lui non ascolta Coxo Spaziale. Comunque bentornati in studio. Adesso in realtà mi sono ricordato che abbiamo suonato poca musica, per cui stamattina mi è arrivato un pezzo nuovo da questi Boom Rush Promotions, che sono un'etichetta di, no, una, come si chiamano, un ufficio stampa tedesco che ci fa sentire del reggae dalla Germania, e andiamo ad ascoltarci Kalia and Dree Island con Wildfire. Tell me, have you my soul on fire. I'll sing the melody that takes me home. You are my only desire. Yeah. Spreading round like wildfire. Music takes me to another town. Let the bass take you higher and higher and higher and higher. In the bass hit up, yeah, you'll feel better. Make good vibe. Just for ya, just close your eyes for a new horizon. Like just get better, you hear that guitar. Tell me, have you ever been in need of sedation? Tell me, have you ever felt your stunning sensation? Una cosa che io faccio ogni tanto è quello di alzare il microfono quando i miei ospiti parlano tra di loro, a sorpresa. A sorpresa, sì. Mi sembra giusto. Sì, è una delle cose di. Esatto. No, una delle cose da coxo spaziale, lo faceva spessissimo anche Fedra, che saluto. E spero che prima o poi torni a fare il mix, perché lei è molto più brava di me a lavorare sul mix. Allora, siamo ritornati. Ah, esatto, e naturalmente è anche ora. Non lo so, c'era qualcos'altro di particolare che mi dovevate raccontare di Exit? Oppure vi ho lasciato spiazzato? Andiamo avanti con questa cosa che è l'angolo della menzione. Però ho parlato troppo presto, perché in realtà devo andare a cercare le menzioni. me ne sono dimenticato. Allora, cosa succede questa settimana? Mercoledì 1 dicembre, che sarebbe poi dopodomani, alle 19, abbiamo Da sola di Percy Bertolini, una mostra ispirata all'omonimo libro edito da Diabolo Edizioni. Da sola racconta la storia di un'evasione dalla norma che imprigiona. Scusate il mio italiano, ma sì, ho un font, non so se troppo grande o troppo piccolo. In un universo distopico in cui coesistono diverse realtà, la protagonista, giovane mostro mutante dall'identità queer, sfugge al potere che vorrebbe normalizzarla, trovando rifugio e forza nella propria solitudine. Catturata da una pattuglia a guardia di un'imponente città brutalista, la protagonista di Da sola viene trascinata in un ospedale psichiatrico in quanto individuo non conforme, potenzialmente pericoloso. Con la fuga dall'istituto e il suo girovagare tra le strade di Betonstadt, troverà però il modo di contrastare la violenza normalizzatrice del mondo in cui vive. Questa è una mostra in occasione di Billboard Bull 2021 ed è a Maison Berton, che è uno spazio che fra l'altro non so se conoscete, ma vi dovrebbe interessare abbastanza, perché è una casa in cui succedono cose di arte contemporanea che abbiamo appunto sentito la settimana scorsa, la settimana scorsa o due settimane fa, non mi ricordo più, la nostra Maria Rosa Lamanna che appunto gestisce questo spazio. Poi invece, naturalmente su coxospaziale.blogspot.com trovate tutte le indicazioni di orari eccetera, perché la mostra apre il mercoledì, inaugura mercoledì alle 19, poi aperta solo giovedì 2 fino a domenica 5, ma trovate tutto su maison22.it. Poi invece giovedì 2 dicembre alle 17.30, sempre in occasione, non so se ve ne siete accorti, ma questa settimana comincia Billboard Bull Festival, noi abbiamo da Corraini al Mambo una mostra dedicata ai vermi di Noemi Viola, protagonista del suo ultimo libro Sulla vita sfortunata dei vermi, trattato abbastanza breve di storia naturale. La mostra, che si intitola Come mi piange il cuore, avrà per protagonista il lombrico, anche detto verme di terra o più semplicemente verme. Dalle abitudini alimentari ai comportamenti bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è moltissimo da scoprire sul verme, eppure nessuno, con l'illustre eccezione di Charles Darwin, sembra essersi mai interessato a lui. La mostra è visitabile fino al 12 gennaio 2022 e questo è a Corraini Mambo Art Bookshop in via Don Minzoni 14. Poi cos'altro abbiamo? Niente, invece la domenica c'è un laboratorio a cura sempre di Noemi Viola che si intitola, dicevi, no, ma puoi interrompermi, non c'è. Noemi Vola. Vola, oddio, hai ragione, scusami tanto. Anzi, scusami Noemi se sei, non credo che tu sia all'ascolto, però magari qualcuno di Corraini sì. Noemi Vola, no, sono io che sono un po' dislessico, che appunto ci fa un workshop gratuito, fra l'altro, fantastico, che si intitola per fare una fanzine ci vogliono della carta, un pennarello, dei punti metallici, un po' di cose tristi a cui pensare, partendo dalla lettura dell'albo illustrato sulla vita sfortunata dei vermi, trattato abbastanza breve di storie naturali. I partecipanti creeranno una fanzine insieme all'autrice. L'ingresso è gratuito con prenotazione, e questo è domenica 5 alle 11 di mattina, ed è dai 12 anni in su è richiesto il Green Pass, come ormai dovunque. Poi abbiamo invece sabato 4 dicembre alle 18 inaugura una mostra su Augusto Maiani, nato nel 1867 e morto nel 1959, che si intitola La potenza dell'idea, a cura di Francesca Sinigaglia. Adesso ci guardo bene per non pronunciare male tutte queste cose. La mostra è promossa dall'Associazione Bologna per le Arti ed è a Palazzo buonanotte, a Palazzo da Curzio a Bologna. Una mostra che per la prima volta indaga in maniera approfondita la produzione pittorica dell'artista, contribuendo ad aggiornare gli studi sul suo lavoro. Saranno esposte circa 90 opere, tra tele e tavole, dagli esordi fino agli anni 50 del Novecento. Con questa mostra, scrive la curatrice, si è potuto finalmente realizzare un aggiornamento doveroso riguardo la produzione pittorica dell'artista, meno considerata e limitata rispetto spesso alla stregua dell'opera grafica, tradizionalmente ben più titolata e riconosciuta. Io devo dire che, ammetto la mia ignoranza, non conoscevo Augusto Maiani e sono curiosissimo di andarmelo a vedere, anche perché la mostra è gratuita e questo e gli orari sono dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18:30 a Palazzo da Curzio. Dopodiché, se andate su bolognaperlearti.it, trovate tutto quello che vi serve sapere su questa mostra. Sempre sabato inaugura alla Pinacoteca Nazionale la mostra Antonio Canova e Bologna, un mostrone questa, mi sembra che sia. Il titolo della mostra è Antonio Canova e Bologna, alle origini della Pinacoteca, a cura di Alessio Costarelli. L'esposizione, promossa in sinergia con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, si è avvalsa della collaborazione della Società di Santa Cecilia, amici della Pinacoteca Nazionale di Bologna, del Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna e della casa editrice Elekta. L'esposizione, che costituisce anche un'occasione per rievocare le origini della più vasta collezione pubblica di arte bolognese, si inserisce come progetto pilota all'interno di una programmazione di iniziative con cui la Pinacoteca Nazionale di Bologna intende rinnovare la propria presenza nel tessuto culturale della città, rendendo esplicito il legame tra il patrimonio del museo e la storia del territorio, e quindi rinsaldando il legame tra passato e presente. Questa è la Pinacoteca Nazionale di Bologna in via Belle Arti 56, e di nuovo trovate tutto sul sito canovabologna.it. E leggendo anche questa cosa, devo anche dire, è anche ora che la Pinacoteca mostri un po', in maniera un po' più aperta, quello che fa, perché conosco un sacco di persone che non sanno neanche che la Pinacoteca esiste, per esempio, mentre invece ci sono delle opere, tra cui un Raffaello meraviglioso, da non mancare. E così abbiamo finito il nostro angolo della menzione e possiamo tornare a Michele, che ci racconta qualcos'altro di Bottega Finzione, giusto? Sì, dunque, prima mi ha colpito molto il libro sui vermi. Il libro sui vermi, sì, ti è piaciuto? Molto interessante. Okay. Dov'è che lo... Questo è nella libreria Corraini del Mambo, che nella parte superiore ha uno spazio espositivo e spesso fa delle iniziative anche in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Mambo. Bello. Va bene. Io bene. Di Bottega posso raccontarvi un po' il metodo che adottiamo, insomma, per formare gli autori, che appunto abbiamo chiamato Bottega proprio per un motivo molto semplice. Infatti ha un nome abbastanza particolare, sì. Devo dire che La prima volta che ho sentito parlare di voi non avevo capito praticamente nulla. Giusto, vedi, quindi ci raccontiamo benissimo, abbiamo un incipit misterioso. Esatto, no, ma questo è dato dal fatto che io interpreto l'uomo comune e non leggo i comunicati stampa, cioè no, li ricevo, giusto. Dico, ah bello questo, facciamolo, ma poi non lo leggo, per cui appunto sì. No, no, ma noi abbiamo in realtà copiato proprio paro paro la struttura delle botteghe. In botteghe dei pittori, insomma, rinascimentali, nel senso che vengono dei docenti che in realtà sono dei professionisti della narrazione, della scrittura, della sceneggiatura, insomma, di tutte le forme narrative più varie che potete immaginare, dal fumetto agli audio doc, che tra l'altro alcuni sono stati fatti anche qua per voi dagli allievi. Ah, vedi, fantastico. Sì, curati da Antonella Beccaria, che insegna in bottega da noi. E vengono dei docenti che portano un progetto e lo condividono con gli allievi, nel senso che in effetti, se voi andate a vedere la composizione delle botteghe rinascimentali, era fatta appunto cosiddetti maestri, cioè quelli, certo, che avevano più esperienza e avevano affrontato i problemi più volte, quindi già questo gli dava un certo vantaggio oltre alla mano, insomma. Ecco, noi lo facciamo sulla scrittura, e poi ci sono gli allievi che frequentano e provano pian piano a fare delle cose insieme. Nel nostro caso sono storie o sceneggiature, o anche c'è anche l'area di letteratura, però generalmente si lavora in gruppi e poi si prova a accompagnarli attraverso la condivisione di un progetto, che può essere un documentario, una serie TV, un format di approfondimento. Ne abbiamo fatti diversi per Sky Arte, uno è in uscita proprio tra poco, il 7 dicembre su Sky Arte va in onda questo nuovo programma che abbiamo fatto, che si chiama Il mio nome è leggenda, condotto da Matilda De Angelis, che anche lei è socia fondatrice della nostra fondazione, al quale partecipano tre ex allievi di bottega, che hanno, insomma, accompagnati da me, da Giuseppe Cassaro che è il produttore, da Antonio Monti che è il regista, e dello staff di Sky Arte, abbiamo sviluppato questo progetto di scrittura. Naturalmente noi ci fermiamo alla scrittura, poi con la parte di produzione andiamo alla realizzazione, e però in questo modo accompagniamo gli allievi, diciamo, dall'aula fino, quando funziona tutto bene, alla realizzazione e allo schermo, diciamo. Dall'aula allo Sky, no? Allo Sky in questo caso, sì. Esatto. Altre volte sono libri o fumetti, abbiamo fatto Dylan Dog. Insomma, ah, fantastico. Tutte le forme del narrare, quando funziona bene, è una cosa che conviene a tutti, perché i docenti portano dei loro progetti, li condividono e li sviluppano insieme ad altri, che nel frattempo, se scrivono qualcosa di buono, può diventare qualcosa che va verso fuori. Alla peggio avranno fatto un esercizio, come si fa, insomma, anche se non esce, anzi la maggior parte, devo dire, dei progetti, certo, non escono. Mm-hmm. Alcuni trovano lo spazio e le condizioni per diventare qualcosa di concreto. Perché comunque la percentuale di chi riesce a campare di un lavoro come lo scrittore, presumo che sia esigua, forse un po' meglio degli artisti visivi, ma forse anche no. Come lo scrittore certamente, ecco, se uno ha l'obiettivo di campare di scrittura, è meglio naturalmente che non si... Che non si monti la testa. Se l'obiettivo subito è quello, è meglio che si diriga verso almeno la sceneggiatura di fiction, okay, ecco, mettiamolo così, seriale. Ecco. Se vai, okay, sulla sceneggiatura seriale, ecco lì le opportunità ci sono sempre più richieste. Mentre invece, se un artista visivo vuole campare di arti visive, che cosa deve fare? Deve cambiare mestiere immediatamente. Cioè, nemmeno una volta c'era l'illustratore scientifico che aveva, certo, uno stipendio, ma adesso non esiste neanche più quello, perché si usa la tecnologia 3D, la macchina fotografica, insomma. Sì, beh, ormai non serviamo più a niente. Forse noi è meglio che visivi non lo chiedi a noi. ma come? No, va bene, nel senso, poi noi facciamo, no, anche tante altre cose. Sì, no, tra l'altro voi cucinate infatti ci siamo conosciuti quando io sono andato nel basamento del Renf così per caso e vi ho trovato a cucire, sì. che cos'era quella serata, cosa. Esatto, infatti mi avete incuriosita tantissimo, a parte che a me il cucito nell'arte piace tantissimo, per cui sì, diciamo che è stata un po' una performance o comunque un momento di incontro che abbiamo voluto creare per rincontrarci, appunto perché come gruppo, come associazione era un parecchio che non incontravamo un pubblico, comunque non avevamo avuto la possibilità e quindi sia per incontrarsi che per fare un po' di autofinanziamento abbiamo avuto questa idea e abbiamo stampato, mettendo un po' insieme le nostre personali capacità di tutto fare, io faccio anche serigrafia, entrambe sappiamo cucire, abbiamo fatto del materiale di merchandising in maniera però molto artigianale rifinito. Era un merchandising un po' particolare perché comunque erano come le si chiamano? Erano delle toppe. Dei pezzi di stoffa che abbiamo. Che abbiamo in realtà raccolto anche da un progetto che abbiamo fatto prima in cui la rappresentazione di quello, una è la scritta Exit e l'altra invece era una cosa un po' astratta che però aveva fatto un artista, giusto? Uno degli artisti con cui avevate collaborato, che si chiama? Andrea De Franco, che è un illustratore, fumettista e musicista, esoterico. Esoterico, decisamente. Io appena li ho visti, mi sono piaciuti moltissimo, ti ho chiesto di cucirmene uno sulla felpa e appena l'ho indossato mi sono sentito meglio. Sì, era proprio quello che volevamo fare, cioè associare a questo simbolo che abbiamo scelto come nostro logo un auspicio di benessere, di buona fortuna, proprio infatti diciamo questo momento che abbiamo invocato l'avevamo intitolato Porta Fortuna. Un po' per noi, un po' per chi ci ha incontrati e chi si è preso un pezzo di questa fortuna. Esatto. Io mi ritengo fortunato. E dunque se qualcuno vuole è un ritardatario che vi ha visto su Instagram e vuole recuperare, è ancora possibile farsi cucire qualcosa da voi? Assolutamente. Noi appunto siamo principalmente adesso attive su Instagram, per cui iscriverci, siamo sempre disponibili e prossimamente sarebbe bello insomma riorganizzare un altro. Ripeteremo, sì. Sì, magari coordinandoci, invitando qualcun altro, perché l'evento dell'altra sera era più incentrato su questo, avevamo curato un piccolo allestimento insieme a questa azione, infatti come accennava Olivia prima c'era parte dell'allestimento, era questo enorme tappeto che abbiamo fatto in un workshop collettivo partecipato in maggio, sempre insieme a Festival 2030, in un'anteprima del festival teatrale. Noi ci siamo occupate di curare questa azione, insomma questo workshop che è durato qualche giorno e diciamo l'esito è stato questo enorme tappeto di quasi 3 metri per 3 cucito collettivamente da tutte le persone che hanno attraversato questo giardino in cui ci siamo incontrati, con frammenti di tessuti e tappeti portati un po' da noi, un po' da chi arrivava e cuciva insieme a noi, quindi anche alcuni di questi tessuti, di queste stoffe ci sono rimasti e le abbiamo poi riutilizzate delle toppe, le abbiamo trasformate in inserti che potessero anche andare sui vestiti, sui corpi, quindi abbiamo un po' trasportato questo materiale e riutilizzato. Questo materiale sbrilluccicante mia figlia appena l'ha visto mi ha invidiato immediatamente. Sì, assolutamente. Ho capito. E invece Bottega Finfioni, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa a proposito di un concorso che aveva a che fare con si chiamava 1026, che aveva a che fare con la strage di Bologna, per i nostri ascoltatori attenti, e questo invece quel tipo di concorso lì verrà ripetuto gli anni, giusto? Viene ripetuto, sì. E, diciamo che l'anima, insomma, lo scopo del concorso sarebbe quello di riallacciare simbolicamente i fili delle vite interrotti quel giorno. Nel senso che proviamo a prendere le passioni di quelle persone e rilanciandole sotto forma di borsa di studio rispetto ad alcune discipline o appunto ambiti che le persone alle quali sono trovate in stazione quel giorno insomma stavano seguendo. Ecco, il concorso è rivolto, per esempio l'anno scorso era per la storia delle arti, che può essere sia appunto per la produzione, sia per la parte storica, sia per la parte in realtà di produzione e progettazione delle arti. E ogni anno, adesso tra poco verrà lanciato il bando invece per l'anno prossimo, per cui ci sentiremo di nuovo in questa occasione. Esatto. E ci puoi già dire che cosa sarà il non posso dirlo ancora, non puoi dirci nulla. Mi sgriderebbero. Ok, molto bene. Non ti facciamo sgridare. Anche perché il nostro tempo, ahimè, è terminato e ci dobbiamo salutare. C'è qualcosa che volevate dire che non avete ancora detto? Volete salutare la nonna? No, scherzo. Volete salutare il mio amico Gifo che mi scrive delle robacce su Facebook? No, c'è qualcosa che non avete detto? Beh sì, innanzitutto io posso dirvi che se da domani andate su coxospaziale.blogspot.com troverete sia il link per Botteghe Finzioni, che ha il sito e che racconta tutto, che il link alla vostra pagina Instagram, in cui si potrà vedere tutto quello che avete fatto finora. E sì, poi io naturalmente vi invito invito i nostri ascoltatori invito voi a ritornare in trasmissione non appena avrete delle cose da raccontarci, e poi naturalmente invito i nostri ascoltatori a interagire con voi in maniera creativa. Io per esempio, adesso che hai detto che tu fai serigrafia, adesso ti importunerò su questo, per esempio. D'accordo. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, e vi lascio come al solito, malgrado i miei ospiti fantastici di oggi, stiamo parlando di me stesso naturalmente, vi lascio con il commento del nostro direttore, che come al solito ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend? Cool professor studying romances. How am I supposed to be?